Quante volte ho detto addio alle storie del passato mio. Quante volte ho detto tu vedrai, domani ricomincerai. Solo che non va così, domani è oggi, e oggi sono ancora qui, qui nella mia vita, a dire che domani cambierà, perché la vita è bella e devi prendere quello che ti dà, ma indietro sai non tornerà. La vita è pazza e ti ritrovi avanti, avanti con l'età, ma indietro sai non tornerà. La vita va, corre e va via, e tutti mi dicevano è sbagliato, perché ho perduto il presente con il passato. Via così, solo che non va così, domani è oggi, e oggi sono ancora qui, qui nella mia vita, a dire che domani quarta ed ultima parte di Rock Legends. Continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Andromeda dal titolo Sogni, Lacrime e Giorni Bui. Come si chiamava questa canzone? La vita va. Dopo il disco, cosa attende ora gli Andromeda per il proseguo del cammino? Beh, parecchi live, stiamo già lavorando anche nuovi pezzi che vorremmo subito mettere in CD, ma che ovviamente hanno bisogno di tempi tecnici, quindi stiamo lavorando parecchio, ci stiamo promuovendo e tanto lavoro e tanta carne al fuoco. Ora ascoltiamo quale canzone? Ora ascoltiamo Ulisse. We'll be right back. Il tempo scorre e noi ragazzi siamo in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni. Scrivete indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming. Un grazie agli Andromeda per la partecipazione, un augurio di pronto ritorno in futuro per la presentazione di un altro possibile album e la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album ed un calendario di eventuali live. Allora, i nostri contatti sono www.theandromeda.it, dove avete il rimando tutti i vari link, MySpace, Facebook, YouTube, email, e qua trovate anche le nostre date, che attualmente sono il 3 ottobre, siamo in finale per Bande Sonore 2010 al Jamaica di Verona, in zona Zai, poi saremo il 7 ottobre a Lucille, a Somma Campagna, e per finire il mese di ottobre, che è abbastanza denso, il 23 ad Arcole, in provincia di Verona, sempre in zona Zai. Brano per chiudere questa puntata. Dolce Amara. Jeanluc e gli Andromeda vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo, quando avremo in studio la formazione mantovana di Terzo Binario, che presenterà il CD la prima volta. Ciao!